Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In apertura di questa nuova puntata ricordiamo l'appuntamento di sabato 30 aprile dalle 10 a mezzogiorno nell'aula tesi della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova per il convegno in occasione della presentazione del terzo rapporto delle povertà e delle risorse riguardante il 2015 realizzato dall'Osservatorio Povertà e Risorse di Caritas Padova. Il titolo scelto per questa terza edizione è Maestro, dove abiti? La presentazione si soffermerà in particolare sulle problematiche abitative. Ci sarà l'intervento col saluto del Vescovo Claudio, l'introduzione del direttore della Caritas di Padova Don Luca Facco, la presentazione dei dati da parte di Daniele Salmaso dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse di Caritas Padova e l'intervento del presidente nazionale SICE del sindacato inquilini Casa e Territorio Massimo Petterlin. Sabato appunto questo convegno aperto con ingresso libero, ci sarà una conferenza stampa questo venerdì 29, poi dei contenuti ampi di questo report parleremo nelle prossime puntate della nostra rubrica. Torniamo all'appuntamento della settimana scorsa con le Caritas nazionali. Avevamo anticipato lo svolgimento del convegno appunto delle Caritas nazionali, 38esima edizione, anche con la presenza di Papa Francesco, che si è soffermato nel suo intervento in particolare sulle sfide, le contraddizioni di questo tempo, ricordando il difficile ma fondamentale compito della Caritas di fare in modo che il servizio caritativo diventi impegno di ciascuno, cioè che l'intera comunità cristiana diventi soggetto di carità. Di fronte alle sfide globali, ha detto il Papa, che seminano paure, iniquità, speculazioni finanziarie anche sul cibo, degrado ambientale e guerre, è necessario portare avanti insieme al lavoro quotidiano sul territorio anche l'impegno per educare all'incontro rispettoso e fraterno tra cultura e civiltà e alla cura del creato per un'ecologia integrale. Il Papa ha poi invitato la Caritas italiana ad essere fedele anche in questo al suo mandato statutario, incoraggiando poi a proseguire nell'impegno nella prossimità nei confronti delle persone immigrate. Il tema delle migrazioni sempre al centro anche delle cronache del dibattito, ma anche fortunatamente dell'azione di tante persone, a cominciare proprio dal Papa. La sua visita qualche giorno fa all'isola di Lesbo ancora sta facendo discutere in senso positivo, soprattutto. Poi c'è anche chi ha polemizzato. Sicuramente non ha polemizzato l'editorialista dei quotidiani del gruppo L'Espresso del Veneto, Francesco Iori, al microfono di Paola Sartore di Telechiara. Beh, è successo che per la prima volta, anziché riceverli qui, ma bene o male che sia, una persona è andata lì e li ha guardati negli occhi. E a me è venuto in mente quel gesto, grande gesto di Papa Giovanni XXIII a suo tempo, quando andò nel carcere di Rebibbia e disse proprio questa frase ai carcerati: ho messo i miei occhi nei vostri occhi, il mio cuore nel vostro cuore. Ecco, a distanza di tanto tempo un altro Papa è andato a guardare queste persone e a dire: siamo con voi, a sentirli e a farci sentire che sono uomini e non bestie. Il Papa ha chiesto ai richiedenti asilo, ai rifugiati, ai profughi, perdono per l'indifferenza, per la nostra indifferenza, però sembra che anche questo richiamo del Papa non sia stato molto seguito. E beh, è proprio la conferma che c'è bisogno invece di dirlo, perché il Papa a suo tempo ha usato questo termine molto indicativo, globalizzazione dell'indifferenza. E quando chiede perdono, lui lo fa prima di tutto a titolo personale, in secondo luogo a nome di una Chiesa che deve ricordarsi di non diventare quella che questo Papa sempre ha chiamato i cristiani da pasticceria. In terzo luogo lo fa a nome di tutta l'umanità, perché noi con i nonni, gli antenati di queste persone abbiamo dei pesantissimi debiti da pagare. La risposta dell'Europa intanto è un nuovo blocco al Brennero in casa nostra. Sì, è la risposta che dice quanto questa Europa sia sull'orlo di qualcosa di più della decadenza, perché veramente se guardiamo i numeri quasi 9 profughi su 10 oggi sono accolti in paesi del terzo mondo. Il Libano da solo fa più di quanto faccia l'intera Europa messa assieme, ma non è solo questo, è proprio una mentalità, anche a proposito per esempio del Brennero. Le reazioni che ci sono state per contro il fatto di tirare su un altro muro sono state ragioni economiche, non umanitarie, cioè attenzione che le nostre merci ne soffrono, le persone possono pure soffrire, crepare, tornare a casa, l'importante è che le merci arrivino, che ci entrino i soldi, eccetera. Però questa Europa dimentica che è grazie agli immigrati che fino ad oggi, e continuerà a essere anche domani, riesce a garantire gli stessi livelli di produzione di un tempo, perché il calo di natalità fa sì che manchi forza lavoro e quindi siamo noi che abbiamo chiamato qua gli immigrati. Quindi sarebbe bene avere uno sguardo un po' più lungimirante. Assolutamente, io vorrei che anche tanti di quelli che fanno i duri si chiedessero che cosa sarebbe della nostra vita quotidiana se non ci fossero quelli che vanno a fare i lavori duri in fabbrica, se non ci fossero le babysitter, se non ci fossero le badanti che ci consentono di assistere a casa i nostri vecchi e avanti di questo passo. Ma soprattutto non è lungimirante, perché questa storia di tirar su muri, intanto la storia ha fatto crollare tutti i muri, ma poi in particolare cosa facciamo? Costruiamo muri nel Mediterraneo? Abbastanza ridicolo. Era Francesco Iori, editorialista e giornalista del Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia e Corriere delle Alpi. Ha espresso la sua opinione appunto su questa opera di Papa Francesco e sulla situazione attuale relativa ai migranti. Settimana scorsa, in occasione del convegno nazionale delle Caritas, è stato presentato e diffuso il dossier informativo La Primavera dei Profughi. Bene, do solo alcuni numeri relativi alla mappa dell'accoglienza aggiornata su dati del Ministero dell'Interno a marzo di quest'anno, quindi a poche settimane fa. Ebbene, la regione che in termini assoluti, in termini percentuali, accoglie più persone migranti è la Lombardia, accoglie il 13% del totale, 14.580 persone. Poi c'è la Sicilia che ha l'11% del totale, 12.025 persone. Ovviamente le regioni più piccole ospitano meno, Val d'Aosta, Basilicata piuttosto che il Molise. Il Veneto, come altre regioni, ha una quota dell'8%, 8.336. Sappiamo anche che su questo sta cercando delle soluzioni proprio il Ministero dell'Interno con le prefetture, e il tema appunto dell'accoglienza, quindi delle strutture e delle case, sarà al centro del report di Caritas Padova che sarà presentato nei prossimi giorni, cui vi daremo conto nelle prossime puntate. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.